Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È una delle signore del teatro con frequenti incursioni nella letteratura, nella televisione e alla radio, nel doppiaggio e un intenso impegno civile. Esordisce nel 1980 con Repertorio, cioè L'orfana e il reggicalze. Nel 1987 debutta con Ad Lib, monologo con cui inizia anche la sua attività di autrice. È l'inizio di un percorso che la porterà a diventare una delle più amate attrici italiane. Lei è Gabriella, o meglio Lella Costa. La sua lunga estate di teatro finisce sabato sera dal Bissola Marina con la lettura dell'Odissea e in particolare del mito di Penelope. Mi sono resa conto di essere diventata grande nel corso degli anni, perché quando studiavo l'Odissea a scuola sicuramente me ne fregavo abbastanza, anzi Penelope appunto era antipatica, io semmai mi identificavo con Ulisse come tutte le ragazze che erano in cerca di altri orizzonti. In realtà Penelope è uno degli più straordinari modelli di intelligenza femminile e di capacità di gestire la vita, di esercizio di un potere che evidentemente da una parte inquieta, dall'altra irrita, dall'altra lascia perplessi, però è una donna di una forza, di una determinazione, di una generosità e di una, appunto, di un'intelligenza assolutamente straordinaria. È una che progetta la vita e che si mette e si fa carico, e quindi direi che è uno dei più belli archetipi femminili che possa capitare di incontrare nella letteratura. Quindi talvolta vale la pena aspettare? Soprattutto Penelope ha un progetto in testa e probabilmente nel suo è una, soprattutto credo, fedele, sicuramente è un uomo, insomma stiamo anche parlando di un'epoca assai remota, e la cosa straordinaria è che ne parli con un coinvolgimento come se fosse una cosa che hai visto succedere accanto a te, no? E questa è la grandezza assoluta dei classici. Credo che la fedeltà, oltre che all'uomo, fosse proprio al progetto comune, a quello che lei e Ulisse avevano costretto, comunque in cui lei credeva, e quindi è quello che ha difeso fortemente e con questa determinazione, e quindi anche questa capacità di usare un'altra misura del tempo, lo stesso tempo che il consorte ha riempito perdendosi e disperdendosi e facendo incontri, lei l'ha impiegato invece con un altro atteggiamento nei confronti della vita. Sarebbe bello capire alla fine chi ne è uscito più arricchito dei due. Noi creature del caso abbiamo desideri bizzarri e amori inspiegabili. Ci sono tizi che potrebbero distruggersi senza ottenere un'unghia da noi, e altri che ci portano a casa con un mazzo di fiori. Tu mi hai senza contropartita. Perché? Perché quando mi hai vista sputare sangue mi hai preso la mano, perché hai pianto. Allora ascolta, amico. Io avevo un cane una volta. Quando tossivo mi guardava, abbassava le orecchie e diventava triste. È l'unica creatura che abbia mai amato. Io ti ho amato subito come quel cane. Se voi uomini sapeste che cosa si può ottenere in cambio di una lacrima. E allora, amico, adesso cerca di usare la tua intelligenza del cuore con me, perché quelle come me sono abituate ad avere intorno gente che scruta ogni nostra frase, che interpreta ogni nostro desiderio. Questi non sono amici, no, sono solo amanti, egoisti, che sperperano i loro capitali non per noi, come credono, ma per la loro vanità. Quanto è bello e quanto è utile giocare con i miti, con la letteratura, con le favole. A me viene in mente subito la sindrome di Gertrude, visto che il suo libro, così quasi un'autobiografia, si intitolava. Quanto è divertente, quanto è utile e quanti spunti ci dà? Bello e bellissimo. Spero che sia altrettanto bello da parte di chi ascolta. Sicuramente lavorare sui miti, lavorare sui classici, è una cosa semplicemente inebriante. Nasce anche da una considerazione che nel mio caso è, come posso dire, di disarmante e disarmata autenticità. Io non credo che sia tanto possibile e verosimile oggi pensare di poter inventare nuove storie, nuove trame. Io comunque non ne sono capace, però è straordinario come alcuni, appunto, quelli che consideriamo gli archetipi narrativi dell'umanità siano ancora oggi preziosi per decifrare quello che ci succede intorno. Credo che questo sia una delle cose più belle, che non è, come dire, essere allora legati al passato e non riuscire a liberarsene, ma è prendere atto di una grandezza e soprattutto di una durata. Quando ancora oggi uno si commuove, ma non soltanto a leggere l'Odissea, a leggere da Shakespeare a Euripide, ma magari anche semplicemente a chi ha raccontato il mondo un paio di secoli fa, forse appunto è inutile cercare a tutti i costi di scrivere qualcosa di nuovo. È sopravvalutato l'aggettivo nuovo, secondo me, nel nostro, da una trentina d'anni a questa parte. È molto difficile inventare davvero qualcosa che sia nuovo in tutti i campi, ahimè, temo, e forse è più saggio affidarsi e rileggere e reinterpretare quello che ha dalla sua la garanzia dei secoli e dei millenni. Il vero terreno su cui viene fuori tutta la diversità tra maschi e femmine, femmine contro maschi, maschi contro femmine, siamo sempre lì, è sul terreno dell'amore che saltano fuori quelle diversità di sguardo, di decifrazione della realtà, c'è il fraintendimento costante e comincia molto presto. Ci sono dei vissuti totalmente diversi, già i ragazzini, adolescenti, lei e lui la vivono diversamente. Lo chiamo o non lo chiamo? E se lo chiamo, vede il mio numero e così non mi risponde lei, lui. La chiamo o non la chiamo? E se la chiamo, vede il mio numero e cazzo mi risponde? È così che comincia. Ogni volta che la intervistano le chiedono qualsiasi cosa riguardi il mondo delle donne, come si concilia la carriera col lavoro, come si invecchia, come si seduce, come lei come si sente a rappresentare a questo punto un punto di riferimento? Allora, mi sento a disagio perché penso che sia sempre improprio e anche un po' fastidioso mettersi a fare a discettare, a sdottorare su tutto, per cui una buona parte delle richieste che mi vengono fatte, spero con sufficiente garbo, le declino. Non voglio appunto parlare di tutto ed esprimere pareri su cose che non conosco o che non mi somigliano. Credo che chiedo un po' scusa alla complessità, alla molteplicità dell'universo femminile, che sicuramente non può minimamente essere rappresentato da me, però credo di avere dalla mia uno sguardo davvero appassionato, affettuoso e molto fiero dell'appartenere al genere femminile, e quindi spero di non fare danni in questo senso, ma non mi sento certo esaustiva o portavoce di niente, di nessuno, però sicuramente le battaglie, ma soprattutto lo sguardo delle donne sul mondo è quanto di forse è quello che mi è più caro nella mia vita di relazione, nella mia vita professionale. Spero di non fare danni. Sosteniamo ormai da anni che quello che vogliamo veramente avere accanto è un uomo che ci capisca, che sia un compagno sensibile, attento, dolce, in sintonia con noi, che ci sappia capire nel profondo. La cosa carina è che in genere lo troviamo, uno così, e lo releghiamo regolarmente al ruolo di migliore amico. Matteo lo sa sicuramente. È così. Guarda, ti giuro, Matteo, ormai lo chiamiamo Matteo, ti giuro, Matteo, guarda, io... Sai, veramente sto malissimo in questo periodo perché vivo questa contraddizione profonda, capisci? Tu per me sei l'uomo perfetto, no? Ti giuro, io con te sto benissimo, ci capiamo su tutto, abbiamo gli stessi gusti, condividiamo le stesse passioni, io con te, capisci? Io con te posso parlare di tutto. Lui vorrebbe scopare, tu parli. L'ironia non la puoi prendere da nessuno, ci devi lavorare tu, su di te è un problema di sguardo sul mondo, ma praticata costantemente, no? E non soltanto riservata ai 5 minuti o l'ora e mezza di esibizione, è qualcosa di cui devi in qualche modo impregnare la tua vita, e io a quello sto lavorando, ci provo, soprattutto provo a trasmettere a chi mi sta intorno, innanzitutto alle mie figlie, perché penso che sia una meravigliosa arma, come diceva Ignazio Paco Taibo II, una straordinaria arma di distruzione di neuroni avanti. Variati. Ecco, mi piace molto questa straordinaria questione. Però le dico che secondo me la più bella definizione di ironia che io trovo di commovente esattezza, io l'ho trovata in Romain Gary. Ha scritto che l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Ecco, secondo me non si poteva dire meglio di così. Beh, devo dire che si può utilizzare con grande efficacia in questo momento storico, allora. Brava, direi proprio di sì, è una delle poche armi che abbiamo. E quando il sole cala la sera e con più forza battono i cuori, facendo il monaco da ogni cespuglio e tutte le foglie levan lamento, ovunque nell'aria è una pena, una piaga, lento il cavallo si inoltra nel lago. Lo spavento si increspa la criniera, il cavaliere ora lo spettro vede e si fa il segno dell'antica fede. donne, tante donne, però ultimamente lei si è concessa alla Mittelfest una incursione nella poesia insieme a un signore che si chiama Liszt. Com'è stata questa avventura? Allora, innanzitutto io con la poesia ho un rapporto ormai, insomma, da qualche anno, la frequento più che posso, ho messo su un piccolo reading di poetesse perché mi piacciono molto le parole delle donne e anche le parole poetiche sono davvero sorprendenti. Il signore che si chiama Liszt mi è stato regalato, devo dire, questo melologo, questa lettura, da un pianista straordinario che si chiama Roberto Plano, giovane, talentuosissimo e soprattutto capace di suonare partiture di Liszt che sono impossibili, ecco, a detta di suoi colleghi esimi. E Liszt scrisse, questo ricorre il bicentenario della sua nascita, e scrisse allora tre sonate brevi dopo aver ascoltato la lettura di tre sonetti di Petrarca, una sonata più lunga dopo la lettura di un canto dantesco e poi due veri e propri melologhi. Il melologo è una meravigliosa invenzione per cui è una partitura in genere scritta per pianoforte in cui la voce dell'interprete è proprio considerata alla stregua di uno strumento musicale, quasi di una voce che canta, mentre per cui è proprio una cosa che devi fare insieme al pianista. Io avevo fatto altri melologhi in precedenza, ma insomma questo è particolarmente appassionante e mi pare che anche il pubblico che ha assistito a queste rare repliche che abbiamo fatto di questo piccolo gioiello abbia apprezzato moltissimo proprio questa potenza e questa intensità narrativa sia innanzitutto del pianoforte e anche delle parole parlate, ecco. Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre e salta giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e felci, fino alle radici delle sughere dei mandorli, o scende scivolando sulle pietre per i monti e colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube, dominata dai venti e pioggia benedetta. A parte la follia di ucciderci l'un l'altro per motivi irrilevanti, eravamo felici. Ma lei davvero pensa che una che perde la scarpetta di cristallo come Cenerentola non si meriti davvero l'happy end? Beh, insomma, perdere una scarpa fatta su misura apposta per te da una fata anche svanita che ci ha messo tutta quella cura e perderla in quel modo non è una figura di riferimento affidabile per le nostre figlie, nipoti e pronipoti. Non va bene, cioè gli uomini passano, le scarpe restano. Oggi con noi c'era Lella Costa, ci ritroviamo domani con la nostra ultima voce in scena. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.